la necessità di ritornare alle origini. Il tempo è il più grande nemico per ricordare le origini di ogni cosa. Quando si vuole ricordare un evento, più tempo è trascorso e più è difficile ricordare ogni minimo particolare, e per questo a episodi che hanno segnato il corso della storia sono date varie interpretazioni e a volte attribuiti eventi che non corrispondono alla realtà. Da qui nascono le leggende, cioè quei fatti storici intessuti di immaginazione. Perciò chi desidera conoscere i fatti così come sono accaduti è costretto ad andare alle fonti originarie degli eventi stessi. Cosa non facile se gli episodi storici non hanno un riscontro letterario, ma fanno soltanto parte di una tradizione popolare come la leggenda di Romolo a remo allattati da una lupa, mentre è possibile verificare la realtà degli eventi se ci sono documenti scritti. In effetti, mentre le tradizioni popolari possono anche variare nel tempo, lo scritto non può essere messo in discussione. Proprio perché lo scritto rimane nel tempo sempre quello, occorre dare il massimo valore a ciò che è scritto nella parola di Dio, perché essa non è solo un trattato di morale, ma è soprattutto un libro storico con descrizione di eventi, dei quali molti di essi sono stati ampiamente dimostrati. Perciò, prima di accettare la Bibbia come un libro religioso, è necessario credere che essa sia un libro storico, che gli eventi descritti in essa siano realmente successi come sono descritti. Senza questa premessa è impossibile trarre dalla parola di Dio l'insegnamento morale che essa vuole trasmettere. Con questa premessa andremo ad esaminare un episodio biblico che apparentemente sembra non dire più di tanto, ma considerato nel suo insieme storico mette in evidenza come sia indispensabile ad un certo punto ritornare alle origini per comprendere se al presente si stia compiendo la cosa giusta o sbagliata. Chi non ha certi problemi morali è evidente che potrebbe anche ignorare questa ricerca, ma dato che un'azione ha sempre le sue conseguenze, se il comportamento è giusto se ne ha un beneficio fisico e morale, diversamente, se l'azione è sbagliata, se ne portano le conseguenze negative. Se nell'attraversare la strada a piedi non guardo a destra e a sinistra, molto probabilmente avrò un brutto incidente. Se invece sono accorto e prudente, arriverò dall'altra parte della strada sano e soddisfatto. Ciò che è giusto non è solo utile alla morale, ma anche al benessere fisico. L'episodio storico al quale mi riferisco lo troviamo descritto nel secondo libro di Samuele. Davide radunò di nuovo tutti gli uomini scelti di Israele in numero di 30.000. Poi si levò e partì con tutto il popolo che era con lui da Baale di Giuda, per trasportare di là l'arca di Dio, col nome stesso, dell'Eterno degli eserciti, che siede sopra i cherubini. E posero l'arca di Dio sopra un carro nuovo e la tolsero dalla casa di Abinadab, che era sul colle. Uzza e Ahio, figli di Abinadab, guidavano il carro nuovo. Così condussero via l'arca di Dio dalla casa di Abinadab, che era sul colle, e Ahio andava davanti all'arca. Davide e tutta la casa di Israele suonavano davanti all'Eterno ogni sorta di strumenti di legno di cipresso, cetre, arpe, tamburelli, sistri e cembali. Quando giunsero all'aia di Nacon, Uzza stese la mano verso l'arca di Dio e la sostenne, perché i buoi inciamparono. Allora l'ira dell'Eterno si accese contro Uzza, e là Dio lo colpì per la sua colpa. Ed egli morì in quel luogo presso l'arca di Dio. Davide fu grandemente amareggiato perché l'Eterno aveva aperto una breccia nel popolo, colpendo Uzza. 2 Samuele 6.18. L'episodio della morte di Uzza ha sempre suscitato un certo imbarazzo perché, dopo tutto, è morto solo per evitare all'arca una cassa di legno da caccia ricoperta d'oro puro che simboleggiava la presenza dell'Eterno, di cadere per terra. Il gesto e le motivazioni di Uzza non erano malvagie, eppure l'Eterno ritenne di punirlo con la morte. Com'è possibile giustificare moralmente un simile episodio? La risposta risiede nell'ordine primordiale che l'Eterno diede in merito all'arca. Faranno dunque un'arca di legno da caccia. La sua lunghezza sarà di 2 cubiti e mezzo, la sua larghezza di 1 cubito e mezzo e la sua altezza di 1 cubito e mezzo. La rivestirai d'oro puro. La rivestirai così, sia dentro che fuori, le farai al di sopra una ghirlanda d'oro, che giri intorno. Fonderai per essa quattro anelli d'oro, che metterai ai suoi quattro piedi, due anelli da un lato e due anelli dall'altro lato. Farai anche delle stanghe di legno di acacia, e le rivestirai d'oro. Farai passare le stanghe negli anelli ai lati dell'arca, perché servono a portarla. Le stanghe rimarranno negli anelli dell'arca, e non ne saranno sfilate. Poi metterai nell'arca la testimonianza che ti darò. Esodo 25.1016. Dunque, l'arca fu costruita per essere portata sulle spalle tramite due stanghe che dovevano rimanere infilate negli appositi anelli. In effetti, l'arca doveva essere portata nelle occasioni importanti, precedette gli israeliti quando questi partirono dal monte Sinai. Sempre portata sulle spalle, l'arca entrò nel Giordano davanti al popolo, restandovi mentre il fiume cessava di scorrere, fino a quando tutte le tribù non l'ebbero attraversato. L'arca fu trasportata intorno alle mura di Gerico per tre. Al tempo del sacerdote Eli, cioè dopo circa 120 anni, fu trasportata nel campo di battaglia, come se fosse stato un talismano. Ma i filistei se ne impadronirono, e poiché erano stati colpiti di malattia, la rimandarono indietro posta su di un carro nuovo tirato da due vacche che allattavano. Molto probabilmente gli israeliti videro per la prima volta una cosa veramente innovativa. L'arca trasportata su di un carro? Forse non ci avevano mai pensato. Ma perché non trasportare l'arca su di un carro, anziché doverla trasportare a spalle? Non era forse più comodo e meno faticoso che doverla sostenerla? Molto probabilmente fu in quell'occasione che decisero di far trasportare l'arca dagli animali, e anche se non fosse così, sta di fatto che dopo circa 300 anni, cioè il tempo del re Davide ed esattamente nell'episodio della morte di Uzza, l'arca era ancora trasportata su di un carro. E notiamo, per evitare impurità un carro nuovo, anche se originariamente l'Eterno Dio aveva ordinato di trasportare l'arca sulle spalle mediante delle stanghe, ormai era di moda trasportare l'arca su di un carro. Le abitudini culturali, il si è sempre fatto così, la tradizioni, non sono in grado di dirci se quello si sta facendo corrisponde esattamente alla verità. Chi era in grado, dopo 300 anni, di sapere come doveva essere trasportata l'arca? Inoltre, nessuno si poneva il problema perché ormai era costume culturale vedere l'arca trasportata su di un carro. Perché cambiare abitudine? Perché poi dover far fatica per trasportare un'arca quando c'era la possibilità di trasportarla con un carro? Non si otteneva forse lo stesso risultato? Lo scopo non era forse quello di portare l'arca alla sua destinazione? Era forse il mezzo di trasporto un fattore determinante? I sacerdoti non facevano comunque la volontà di Dio nel trasportare l'arca, anche se il metodo non era quello indicato da Dio? Dio è forse un legalista? Domande più che lecite, ma sta di fatto che i buoi nel trasportare l'arca inciamparono rischiando di fare cadere l'arca e, il fatto più grave, Uzza morì. E di questo il re Davide si attristò. Proprio per la morte di Uzza, Davide fu costretto a compiere delle ricerche per comprendere la ragione di questa morte improvvisa, ed ecco cosa leggiamo in seguito al racconto. Quindi Davide chiamò i sacerdoti Zadok e Abiatar, e i leviti Uriel, Asaia, Joel, Shemaia, Eliel e Amminadab. E disse loro: «Voi siete i capi delle case paterne dei leviti, santificatevi, voi e i vostri fratelli, affinché possiate trasportare l'arca dell'Eterno, il Dio di Israele, nel posto che io le ho preparato. Poiché la prima volta voi non c'eravate, e l'Eterno, il nostro Dio, ha aperto una breccia fra noi, perché non lo avevamo cercato secondo le regole stabilite». Così i sacerdoti e i leviti si santificarono per trasportare l'arca dell'Eterno, il Dio di Israele. I figli dei leviti portarono l'arca di Dio sulle loro spalle per mezzo di stanghe, come aveva ordinato Mosè secondo la parola dell'Eterno. 1 Cronache 15.1116. Leggendo nella legge di Dio scritta circa 300 anni prima, Davide comprese che per secoli avevano sbagliato, che la loro abitudine religiosa non aveva un fondamento giusto, e con coraggio ordinò di cambiare tradizione. La loro abitudine di trasportare l'arca con un carro non era in armonia con la volontà originaria di Dio. La grandezza del re Davide non stava solo nelle sue imprese, ma anche nell'avere il coraggio di mutare dopo centinaia d'anni l'espressione della propria religione, adattandola alle condizioni dettate da Yahweh alle origini. Ma il re Davide non fu il solo. Leggiamo nel libro di Due Re che il re Ezechia distrusse il serpente di rame che Mosè aveva costruito e che era oggetto di adorazione, e questo dopo circa 800 anni di pratica religiosa sbagliata. Due Re 17.4. Leggiamo ancora nel libro di Neemia che gli israeliti, dopo aver letto il libro della legge, celebrarono la festa delle capanne in modo tale che non si era più visto dal tempo di Giosuè, e cioè da circa 1000 anni. Neemia 8.17. Aver preso in esame questi esempi non serve a nulla se essi non ci inducono ad avere il coraggio di tornare alle origini dei comandamenti di Dio. Gesù ha ordinato di battezzare in acqua i credenti e noi ci limitiamo a bagnare la testa dei neonati. Gesù ha ordinato di ricordare la sua morte con del pane e con un calice contenente del vino, e noi distribuiamo ciò che non è pane, ciò che non è vino in qualcosa che non è un calice. Gesù ha ordinato di predicare lo scandalo del Vangelo e noi ci limitiamo a moralizzare le persone, stando attenti di non turbarle. Sono passati da 2 a 4.000 anni dagli ordini di Gesù. Chi avrà il coraggio di ritornare alla fonte delle sue parole? Che dico? Chi ha il coraggio oggi di prendere alla lettera le parole di Gesù di amarlo sopra ogni cosa? In gioco non vi è solo la morte fisica come quella di Uzza, ma la perdizione eterna. Marzo 2006. Ellero,